Il povero Adam. Quando Un arrivò a casa, Faith era sdraiata facengiù sul letto e rifiutava di essere consolata da chi che sia. Zia Marta aveva ucciso Adam. Il galletto era deposto su un vassoio nella dispensa, farcito e condito, e circondato da fegato, cuore e altre frattaglie. La zia Marta non badò minimamente al dolore e alla rabbia appassionata di Faith. Dovevamo pur servire qualcosa a cena a questo pastore che viene da fuori, disse. E tu sei fin troppo grande per fare una scenata per un vecchio gallo. Sapevi che prima o poi avremmo dovuto ucciderlo. Quando papà tornerà a casa gli dirò che cosa hai fatto, singhiozzò Faith. Ah, non dare noia a tuo padre, ha già abbastanza guai. E poi la governante di questa casa sono io. Adam era mio. Me l'aveva regalato la signora Johnson. Non avevi il diritto di toccarlo, proruppe Faith. Non essere impertinente. In ogni caso ormai l'ho ammazzato e questa storia finisce qua. Non avevo certo intenzione di servire al pastore bollito di montone freddo. Non è così che mi hanno educata, sebbene poi mi sia ridotta in miseria. Faith non si presentò a cena quella sera e la mattina dopo si rifiutò di andare in chiesa. A pranzo però si sedette a tavola con gli occhi gonfi di pianto e il volto imbronciato. Il reverendo James Perry era un uomo dalla corporatura snella, con le guance rose, i baffoni bianchi, le sopracciglia candide e folte, la testa calva e lucida. Di certo non era un bell'uomo ed era anche un tipo piuttosto noioso e superbo, ma se anche fosse stato l'arcangelo Michele avesse parlato la lingua degli uomini e degli angeli, Faith lo avrebbe comunque detestato. Tagliò con abilità il povero Adam, mettendo in mostra le dita bianche e grassocce e uno splendido anello di diamanti, e si permise persino di scherzare mentre lo faceva. Gerry e Carl ridacchiarono e persino Una gli rivolse un lieve sorriso perché riteneva che fosse educato farlo. Faith invece lo guardò malissimo e il reverendo James pensò che aveva dei modi davvero terribili. A un certo punto rivolse un untuoso commento all'indirizzo di Jerry e Faith si intromise contraddicendolo. Il reverendo inarcò le sopracciglia e la guardò. Le bambine non dovrebbero interrompere, disse, e non dovrebbero contraddire chi ne sa più di loro. Questo mise Faith ancora più di malumore. Si era permesso di chiamarla bambina, come se avesse avuto la stessa età di Rilla Blythe giù a Ingleside. Era insopportabile. E con che gusto aveva mangiato quell'orribile signor Perry? Aveva persino rosicchiato le ossa del povero Adam. Né Faith né Una avevano mandato giù un solo boccone e avevano guardato i loro fratelli come se fossero stati dei cannibali. Faith sapeva che se quell'orrido pasto non fosse giunto presto a termine, ci avrebbe pensato lei lanciando qualcosa contro il testone lucido del signor Perry. Per fortuna, il reverendo ritenne che la coriacea torta di mele della zia Marta fosse troppo per le sue abilità masticatorie, e il pranzo si concluse con una lunga preghiera con la quale il signor Perry presentò ai suoi devoti ringraziamenti per il cibo e che la benevola provvidenza aveva donato loro, acciocché ne traessero sostentamento e moderato piacere. «Dio non c'entra proprio niente, non è stato lui a darti Adam», borbottò furiosa Faith. Dopo pranzo i ragazzi furono felici di poter uscire. Una andò ad aiutare zia Marta con i piatti, sebbene quella vecchia signora brontolona non accettasse mai di buon grado il suo aiuto, e Faith si ritirò nello studio, dove il fuoco scoppiettava allegramente nel caminetto. In quel modo pensava di sfuggire al signor Perry, che aveva annunciato la sua intenzione di fare un pisolino in camera nel pomeriggio. Invece, non appena Faith si fu sistemata in un angolino con un libro, il reverendo entrò e in piedi davanti al fuoco osservò con disapprovazione il disordine dello studio. È davvero disdicevole la confusione che regna tra i libri di tuo padre, bambina, disse in tono severo. Faith si rabbuiò nel suo angolo e non disse una parola. Non aveva intenzione di parlare con quell'essere. Dovresti provare a rimetterli in ordine, proseguì il signor Perry, giocherellando con la graziosa catenina del suo orologio e sorridendo con aria condiscendente. Sei abbastanza grande da poterti occupare di queste faccende. Mia figlia ha solo 10 anni ed è già un'eccellente donna di casa e di grande conforto e aiuto a sua madre. Ed è una bambina molto dolce. Mi piacerebbe che avessi il privilegio di conoscerla. Potrebbe aiutarti molto. Ovviamente so che tu non hai avuto l'inestimabile privilegio di godere delle cure e dell'educazione di una madre, una mancanza molto triste, davvero molto. Ne ho parlato più di una volta con tuo padre, gli ho spiegato con sincerità quali sono i suoi doveri, ma finora non ho avuto effetto. Nel frattempo, quindi, È tuo dovere e privilegio tentare di prendere il venerabile posto di tua madre. Potresti esercitare una grande influenza sui tuoi fratelli e sulla tua sorellina. Diventeresti una vera madre per loro. Ma temo che tu non pensi a queste cose quanto invece dovresti, mia cara bambina. Permettimi di aprirti gli occhi. Il signor Perry proseguì con voce untuosa e compiacente. Era nel suo elemento. Niente gli piaceva di più che spiegare agli altri le regole, fare le paternali ed esortare. Non aveva alcuna intenzione di fermarsi e non lo fece. Se ne stava davanti al caminetto, con i piedi piantati sul tappeto, a blaterare pompose banalità. Faith non ascoltò nemmeno una parola. Non gli prestava proprio attenzione, perché era concentrata a osservare le lunghe code della sua giacca nera, con un lampo impertinente che brillava nei suoi occhi marroni. Il signor Perry era davvero molto vicino al fuoco. Le code della giacca cominciarono a bruciacchiarsi, poi a fumare, e lui continuava a blaterare, avviluppato nella sua stessa eloquenza. Il fumo che si levava dalle code della giacca aumentò. Una minuscola scintilla balzò dalla legna ardente e atterrò sulla stoffa, dove attecchì e si trasformò in una fiamma viva. A quel punto Faith non riuscì più a trattenersi e prese a ridacchiare. Il signor Perry si interruppe furioso per la sua impertinenza, ma poi si rese conto dell'odore di stoffa bruciata che stava riempiendo la stanza. Si voltò, ma non vide nulla. Poi afferrò le code della giacca e le portò davanti a sé. In una c'era già un bel buco, e quella era la sua giacca nuova. La sua posa e l'espressione sul suo viso provocarono a Faith un accesso di riso incontenibile. «Ti eri accorta che le code della giacca stavano bruciando?» chiese il reverendo furibondo. Sì, signore, disse Faith compita. E perché non me l'hai detto? Chiese lui lanciandole un'occhiataccia. Oh, lei ha detto che non sta bene interrompere, signore, disse Faith sempre con ostentata modestia. Ah, se fossi tuo padre, ti darei una sculacciata che ricorderesti per tutta la vita, signorina, disse arrabbiatissimo il reverendo gentiluomo uscendo dallo studio. La giacca dell'abito di riserva del signor Meredith non era della taglia giusta per il signor Perry, che dovette quindi presenziare alla funzione serale con la giacca dalle code bruciate. Quella sera non percorse la navata con la solita consapevolezza dell'onore che la sua presenza conferiva a quel luogo. Non avrebbe mai più accettato di fare a cambio di parrocchia con il signor Meredith, mai più. E quando lo incrociò brevemente alla stazione, fu a malapena cortese con lui. Faith, dal canto suo, provò una tetra soddisfazione. Adam era stato almeno in parte vendicato. Una nuova amicizia per Faith. Il giorno seguente a scuola fu molto dura per Faith. Mary Vance aveva raccontato la storia di Adam e tutti quanti, tranne Blythe, l'avevano presa come una barzelletta. Le ragazze dissero ridacchiando a Faith che erano dispiaciute, i ragazzi le scrissero sarcastici biglietti di condoglianze. La povera Faith tornò a casa da scuola con l'animo abbattuto e ferito. Andrò a Ingleside a parlarne con la signora Blythe, singhiozzò. Lei non riderà di me come tutti gli altri. Ho bisogno di parlare con qualcuno che capisca come mi sento. Attraversò di corsa la valle dell'arcobaleno, che dalla sera del giorno precedente era diventata un posto davvero incantato. Era caduta un po' di neve e gli abeti coperti da una lieve coltre bianca parevano sognare la primavera e le sue gioie future. Alle loro spalle le betulle spoglie coloravano di viola il lungo pendio della collina. La luce rosata del tramonto si posava sul mondo come un bacio. Di tutti i posti leggiadri e fatati, colmi di una bizzarra grazia elfica, la valle dell'arcobaleno nelle sere d'inverno era il più bello. Ma il piccolo cuore addolorato di Faith era impermeabile alla sua bellezza di sogno. Giunta a ruscello, incontrò Rosemary West, seduta sul vecchio tronco di pino. Stava tornando a casa da Ingleside, dove era andata a fare lezione di musica alle ragazze. Era da un po' che si era fermata nella valle dell'arcobaleno ad ammirare la sua candida bellezza, mentre si perdeva in sogni a occhi aperti. A giudicare dall'espressione sul suo viso, dovevano essere sogni molto piacevoli. Forse era l'occasionale tintinnio delle campanelle intorno agli alberi innamorati a far nascere un lieve sorriso sulle sue labbra. O forse era la consapevolezza che John Meredith non mancava mai di trascorrere la serata del lunedì nella sua casetta grigia, in cima alla collina bianca battuta dal vento. Faith Meredith e la sua amarezza ribelle piombarono all'improvviso nei sogni di Rosemary. La bambina si fermò di colpo quando vide la signorina West. Non la conosceva molto bene. Al massimo si salutavano quando si incontravano per strada, ma comunque l'unica persona che voleva vedere in quel momento era la signora Blythe. Sapeva di avere occhi e naso rossi e gonfi e detestava che gli estranei si accorgessero che aveva pianto. «Buonasera, signorina West», disse a disagio. «Che succede, Faith?» chiese Rosemary con voce dolce. «Oh, niente», rispose lei bruscamente. «Oh», sorrise Rosemary. Vuoi dire niente che tu voglia confidare a un'estranea? Tutto a un tratto Faith guardò la signorina West con un nuovo interesse. Lei sembrava capire. E com'era graziosa! Che bel colore d'oro che avevano i suoi capelli sotto il cappello piumato! E com'erano rosa le sue guance sopra il cappotto di velluto! E quanto erano azzurri e affettuosi i suoi occhi! Faith si rese conto che la signorina West poteva essere una cara amica, se solo fossero state amiche invece di due estranee. «Sto andando a raccontarlo alla signora Blythe», disse Faith. «Lei capisce sempre e non ride mai di noi. Le parlo sempre dei miei problemi. Mi aiuta». «Oh, tesoro, mi dispiace dovertelo dire, ma la signora Blythe non è in casa», disse la signorina West, sinceramente dispiaciuta. «È partita per Avonlea oggi e tornerà solo a fine della settimana». Le labbra di Faith presero a tremare. «Allora sarà meglio tornare a casa», disse contrita. «Immagino di sì, a meno che non ti vada di parlare con me al posto suo», disse con voce dolce la signorina Rosemary. «Parlare fa sempre bene, fidati, lo so. Forse non capirò tutto come la signora Blythe, ma ti prometto che non riderò». «Non riderà con la bocca», esitò Faith, «ma potrebbe ridere dentro di sé». «No, non riderò dentro di me, perché dovrei? C'è qualcosa che ti ha ferita e io non trovo mai divertente vedere qualcuno che soffre, qualsiasi sia il motivo. Se ti va di dirmi cosa ti ha fatto star male, ti ascolterò volentieri, ma se preferisci di no, va bene lo stesso, tesoro». Faith fissò a lungo e attentamente gli occhi della signorina West. Erano molto seri, non c'era traccia di divertimento, neanche remota. Con un sospiro si sedette quindi sul vecchio pino accanto alla sua nuova amica. E le raccontò di Adam e del suo crudele destino. Rosemary non rise e nemmeno ne aveva voglia. La capì e simpatizzò per lei quasi come avrebbe fatto la signora Blythe. Era brava allo stesso modo. «Il signor Perry è un pastore, ma avrebbe dovuto fare il macellaio», disse Faith arrabbiata. «Gli piace così tanto trinciare. Si è divertito a fare a pezzi il povero Adam. Lo ha affettato come se fosse stato un galletto qualsiasi». «Detto tra me e te, Faith, neanche a me piace molto il signor Perry», disse Rosemary ridacchiando, «ma per il signor Perry e non per Adam. Faith lo capì subito. Non mi è mai piaciuto. Andavo a scuola con lui, e di Glenn, lo sapevi? Ed era un odioso bacchettone già allora. Ah, tutte le ragazze detestavano dovergli stringere quelle sue mani grassocce e sudate quando facevamo un giro tondo. Però, tesoro, ricorda che lui non aveva idea che Adam fosse il tuo galletto domestico. Pensava sinceramente che fosse un galletto qualsiasi. Per quanto le situazioni ci feriscano, dobbiamo sempre cercare di essere giusti». «Immagino di sì», ammise Faith. «Ma perché tutti trovano ridicolo che volessi così bene ad Adam, signorina West? Se fosse stato un vecchio gattaccio, nessuno ci avrebbe visto nulla di strano. Quando il gattino di Lottie Warren è finito sotto il mietitrebbia e ha perso le zampette, si sono tutti dispiaciuti per lei. Ha pianto per 2 giorni a scuola. E nessuno ha riso di lei, nemmeno Dan Reese. E tutti i suoi compagni sono andati al funerale del gattino e l'hanno aiutata a seppellirlo. Solo che non hanno potuto seppellire anche le zampette perché non le hanno mai trovate. È stata una cosa orribile, certo, ma non così orribile come vedere il tuo animaletto divorato davanti ai tuoi occhi. Eppure tutti ridono di me». «Secondo me è perché galletto è una parola buffa», disse Rosemary pensierosa. «O comunque ha qualcosa di buffo. Pulcino è differente. Voler bene a un pulcino non è una cosa che fa ridere». «Adam era un pulcino tenerissimo, signorina West. Un piccolo battufolo giallo. Correva sempre da me a beccare il mangime dalla mia mano. E quando è cresciuto è diventato bellissimo, bianco come la neve, con una coda ricurva che era splendida, anche se Mary Vance diceva che era troppo corta. Riconosceva il suo nome e quando lo chiamavo veniva sempre. Era un galletto molto intelligente. Zia Marta non aveva nessun diritto di ucciderlo, era mio, non è stato affatto bello, vero, signorina West?» No, rispose lei decisa, neanche un po'. Quando ero piccola avevo una gallinella domestica. Era tanto carina, con le piume marrone dorato, piene di macchioline. Le volevo bene come a qualsiasi altro animaletto domestico. Non l'abbiamo mai uccisa. È morta di vecchiaia. Mia mamma non l'avrebbe mai uccisa. Sapeva che era mia. Se mia madre fosse stata viva non avrebbe permesso che uccidessero Adam, disse Faith. E nemmeno papà, se fosse stato a casa e se ne fosse accorto. Sono sicura di no, signorina West. Oh, lo sono anche io, disse Rosemary. Un lieve rossore si diffuse sul suo viso. Lei se ne rese ben conto, ma Faith non si accorse di nulla. È stato tanto perfido da parte mia non dire al signor Perry che le code della sua giacca si stavano bruciando? Chiese angosciata. Oh, terribilmente perfido, rispose Rosemary con gli occhi che le brillavano, ma io sarei stata altrettanto perfida, Faith. Non gli avrei detto nemmeno io, e forse non mi sarei neanche pentita della mia perfidia. Una dice che avrei dovuto dirglielo perché è comunque un pastore. Cara, se un pastore non si comporta da gentiluomo, non siamo tenute a rispettare le code della sua giacca. Oh, quanto mi sarebbe piaciuto vedere la giacca di Jimmy Perry in fiamme. Deve essere stato molto divertente. E risero entrambe. Ma Faith alla fine sospirò. Beh, Adam però è morto e io non vorrò mai bene a nessuno come a lui. Oh, non dire così, tesoro. Chi non ama si perde tante cose belle. Più amiamo, più la nostra vita si arricchisce, anche se il nostro amore è rivolto solo a un animaletto peloso o piumato. Ti piacerebbe avere un canarino, Faith? Un piccolo canarino giallo? Se vuoi, posso dartene uno. A casa ne abbiamo due. Oh, sì, mi piacerebbe, esclamò Faith. Mi piacciono gli uccelli, però. Il gatto di zia Marta non lo mangerà? È proprio una tragedia veder mangiare i propri animaletti. Non credo di poterlo sopportare un'altra volta. Se appendi la gabbia abbastanza lontano dal muro, non credo che il gatto potrà fargli del male. Ti spiegherò io come prenderti cura di lui. Perciò, se vuoi, lo porterò a Ingleside la prossima volta che ci vado. Nel frattempo, Rosemary pensava. Questa storia farà spettegolare mezza Glen, ma non mi importa, voglio consolare questa povera bambina. Faith si sentiva consolata da quella simpatia e da quella comprensione così dolci. Lei e la signorina Rosemary rimasero sedute sul vecchio pino finché il tramonto non si distese dolcemente sulla valle imbiancata e la stella della sera non spuntò scintillante sopra il macchione di aceri. Faith raccontò a Rosemary il suo breve passato e le sue speranze per il futuro, ciò che le piaceva e ciò che detestava. Le descrisse la sua vita dentro e fuori dalla canonica e le rivelò avventure e disavventure scolastiche e infine si salutarono da vere amiche. A cena quella sera, il signor Meredith era come al solito perso nei suoi pensieri, ma la menzione di un nome superò la barriera della sua distrazione e lo riportò alla realtà. Faith stava raccontando a una del suo incontro con Rosemary. È proprio adorabile, credo, disse. Gentile come la signora Blythe, però in modo diverso. Avevo proprio voglia di abbracciarla. Lei mi ha abbracciata, aveva un bel abbraccio molto soffice e mi ha chiamata tesorino. È stato proprio bello. A lei si può dire tutto. Allora la signorina West ti è piaciuta, Faith? Chiese il signor Meredith con un curioso tono di voce. Oh, tantissimo! Esclamò Faith. Ah! Disse il signor Meredith. La parola impossibile. John Meredith camminava pensieroso nella valle dell'arcobaleno, avvolto dalla pungente aria invernale. Le colline in lontananza risplendevano del meraviglioso luccichio del chiaro di luna sulla neve. I piccoli abeti della valle cantavano la loro canzone selvaggia, accompagnati dall'arpa del vento e del gelo. I suoi figli, insieme ai ragazzi e alle ragazze Blythe, stavano costeggiando il pendio a est e scivolavano sullo stagno ghiacciato. Si stavano divertendo moltissimo e le loro voci felici e le allegre risate riecheggiavano per tutta la valle, spegnendosi tra gli alberi come un incantesimo elfico. Sulla destra, oltre il macchione di aceri, si intravedevano le luci di Ingleside, accoglienti e invitanti come quelle di tutte le case in cui si è certi di trovare affetto e allegria, e dove tutti i congiunti, di sangue o in spirito, sono sempre benvenuti. Al signor Meredith piaceva ogni tanto passare una serata a chiacchierare con il dottore davanti al caminetto, dove i famosi cani di porcellana di Ingleside facevano incessantemente la guardia, simili a divinità del focolare. Non era però una di quelle sere. In lontananza, su una collina occidente, brillava una luce più pallida ma molto più allettante. Il signor Meredith stava andando a trovare Rosemary West. Intendeva rivelarle ciò che lentamente era sbocciato nel suo cuore fin dal loro primo incontro ed era infine fiorito la sera in cui Faith aveva calorosamente espresso la sua ammirazione per lei. Aveva cominciato a realizzare di tenere molto a Rosemary, non allo stesso modo in cui aveva voluto bene a Cecilia, ovviamente, era una cosa del tutto diversa. Quell'amore romantico, sognante e fascinoso non sarebbe mai più tornato, non poteva. Ma Rosemary era bella e dolce e molto, molto cara. Era la migliore persona che si potesse avere accanto. In sua compagnia lui era felice come non avrebbe mai creduto di poter essere di nuovo. E lei sarebbe stata una padrona di casa ideale e una brava madre per i suoi figli. Negli anni di vedovanza, il signor Meredith aveva ricevuto diversi velati inviti a risposarsi, sia dai fratelli membri del presbiterio, sia da parte di vari parrocchiani, da quelli che non potevano essere sospettati di avere secondi fini, a quelli che certamente ne avevano. Tuttavia, nessuna di queste allusioni lo aveva mai turbato e tutti pensavano che non se ne fosse nemmeno accorto. In realtà se n'era accorto e come, e negli occasionali momenti in cui il buon senso comune veniva a fargli visita, si era reso conto che sarebbe stata la cosa più ragionevole da fare. Ma il buon senso comune non era esattamente il punto forte di John Meredith, il quale sarebbe stato assolutamente incapace di scegliere deliberatamente e a sangue freddo una donna che facesse al caso suo, come se si fosse trattato di scegliere una governante o un socio d'affari. E quanto odiava quell'espressione, fare al caso suo, gli ricordava subito James Perry. Una donna dell'età giusta che faccia al caso tuo, aveva detto l'untuoso collega in quella che era stata ben più di un'allusione. Ma in quel momento John Meredith era posseduto dall'inconcepibile desiderio di correre a chiedere la mano di una donna più giovane e che meno di tutte le altre faceva al caso suo. La signora Elliot era una sua buona amica e la trovava simpatica, ma quando gli aveva detto chiaro e tondo che doveva risposarsi, aveva in qualche modo lacerato il velo che celava il sacro tempio della sua vita interiore. E da quel momento lui ne era stato intimorito. Sapeva che c'erano diverse donne che facevano al caso suo nella sua congregazione e che l'avrebbero sposato in men che non si dica. Nonostante la sua distrazione, lo aveva capito fin dai giorni come pastore di Glen St. Mary. Erano donne pratiche e poco interessanti, un paio anche graziose, le altre non molto, e il pensiero di sposarle era passato per la mente di John Meredith quanto quello di impiccarsi. Aveva infatti degli ideali che neanche la più estrema delle necessità l'avrebbe mai indotto a tradire. Non poteva chiedere a nessuna donna di prendere il posto di Cecilia in casa sua, a meno che non potesse offrire almeno un po' dell'affetto e della venerazione che aveva dato alla sua sposa di gioventù. Ma tra le sue limitate conoscenze femminili, dove avrebbe mai potuto trovare una donna del genere? Rosemary West era entrata nella sua vita quella sera d'autunno, portando con sé un'atmosfera che il suo spirito aveva subito riconosciuto come familiare. Avevano subito colmato con l'amicizia la distanza data dall'essere estranei. In quei 10 minuti accanto alla sorgente segreta, lui l'aveva conosciuta meglio di quanto avesse conosciuto in un anno Emily Andrew o Elizabeth Kirk o Amy Annetta Douglas, ma nemmeno in un secolo avrebbe mai potuto conoscerle così. Da lei era andato in cerca di conforto quando la signora Davis aveva offeso la sua mente e il suo animo e l'aveva trovato. Da allora era tornato spesso nella casa sulla collina, passando dai sentieri nascosti della valle dell'arcobaleno con il favore del buio, in modo che le pettegole di Glenn non potessero mai essere assolutamente certe che fosse andato a trovare proprio Rosemary West. Un paio di volte era stato sorpreso nel salotto di casa West da qualche altro visitatore. Le signore della società di mutuo soccorso avevano dovuto accontentarsi di questo. Ma quando Elizabeth Kirk l'aveva saputo, aveva sepolto senza batter ciglio la segreta speranza che si era permessa di coltivare, mentre Emily Andrew aveva deciso che la prossima volta che avesse incontrato un certo vecchio scapolo di Lowbridge non l'avrebbe snobbato come aveva fatto in una recente occasione. Perché Se Rosemary West si era messa in testa di accalappiare il pastore, di certo ce l'avrebbe fatta. Sembrava più giovane di quanto non fosse, e tutti gli uomini la trovavano bella, e poi le ragazze West avevano un sacco di soldi. Bisogna solo sperare che lui non sia così distratto da sbagliarsi e chiedere la mano di Ellen, fu l'unico commento maligno che si permise di fare a una comprensiva sorella. Emmeline non portava rancore nei confronti di Rosemary. In fin dei conti, uno scapolo senza vincoli era molto meglio di un vedovo con quattro figli. Ad accecare temporaneamente il giudizio di Emmeline era stato solo il fascino di vivere nella canonica.